Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Fratelli e sorelle, noi vigilofuochi italiani. Questo è un breve messaggio dai pompieri e dagli operatori del Fire Brigade Union nel UK. La famiglia vigilofuoco è una famiglia senza confini. E in questo periodo molto difficile vi inviamo con tutto il cuore. Forza, amore, speranza e questa canzone. Siamo sempre con voi. Solidarietà. Pensate, care ascoltatrici, cari ascoltatori, che questo è un omaggio bellissimo, commovente dei pompieri, da parte del corpo dei pompieri inglesi all'Italia. Anche la Gran Bretagna non è messa granché, l'Inghilterra, insomma, dal punto di vista dei contagi e dei morti, però hanno voluto fare con grande cuore, insomma, questo omaggio all'Italia, che sicuramente in Europa è ancora quella messa peggio. Si sono sforzati di cantare in italiano, insomma, un inno che ormai è diventato internazionale. Ebbene, ci occuperemo ovviamente di tante notizie che, come sempre, ormai girano intorno al protagonista assoluto, purtroppo, delle nostre vite negli ultimi due mesi per quanto riguarda l'Italia, che è il coronavirus. Parleremo della informativa piuttosto lunga che oggi il Presidente del Consiglio Conte ha tenuto sia al Senato che alla Camera per illustrare la fase 2, alcuni aspetti della fase 2, e poi anche in vista del Consiglio europeo di giovedì, dove dovranno essere prese delle decisioni importanti per gli strumenti economici per affrontare la crisi dovuta al coronavirus, ha illustrato quella che è la trattativa del governo, anche se il governo in realtà è spaccato al suo interno, in particolare tra la posizione del PD e Movimento 5 Stelle, ma anche con Italia Viva, che non condivide le posizioni del Movimento 5 Stelle. Però poi sentiremo un po' tutti gli aspetti, anche rassicurato Conte sull'app, questa app per il tracciamento dei contagi, di cui abbiamo parlato tante volte qui Effetto Notte con vari esperti, l'ultima volta proprio ieri. E poi andrei anche su altri temi, per non doverci vincolare troppo, finire con l'assuefarci completamente, insomma, a questa atmosfera e a questo maledetto virus. Parlerei anche dei 94 anni della regina d'Inghilterra, la sovrana più longeva del mondo, e poi anche della situazione di Zaki, lo studente egiziano che studiava a Bologna e di cui ancora non si sa molto. Si sa solo che questa udienza continua a essere rimandata, sapete che è stato arrestato in Egitto, dove era tornato brevemente per visitare i suoi genitori. Speriamo, vediamo che non faccia la fine di Giulio Regeni. Allora, direi tra pochissimo di partire con la sintesi della giornata, prima di approfondire poi tutti i vari argomenti con gli ospiti. Per i vostri commenti, ve lo ricordo, ormai lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure SMS e WhatsApp da inviare al 349-238-6666, 349-238-6666. Poi c'è il Twitter durante la diretta di Effetto Notte, altrimenti durante il giorno per varie anticipazioni il Twitter è Roby con la Y lineetta bassa Giordano. I dati del coronavirus in Italia: calo netto dei malati nel nostro paese, sono infatti 107.709 gli attualmente positivi, 528 in meno rispetto a ieri. Sono salite a 24.648 le vittime da Covid-19, nuovo record però di guariti da coronavirus, complessivamente sono in Italia 51.600. L'informativa di Conte sulla fase 2, necessarie mascherine e distanziamento fino al vaccino, sottolinea il Presidente del Consiglio, e nessun limite a chi dice no alle app di tracciamento, e annuncia per il nuovo decreto non meno di 50 miliardi. Unione Europea e misure contro il virus. Il presidente dell'Eurogruppo Centeno assicura: non c'è nessun pericolo di effetto Grecia, il MES operativo entro due settimane. I numeri della pandemia: sono oltre 2,5 milioni i casi di coronavirus nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University. Il caso Zaki: è ancora rinviata in Egitto l'udienza per lo studente dell'Università di Bologna, ancora in carcere. I 94 anni di Elisabetta II, compleanno decisamente sobrio a causa della pandemia per la regina più longeva del mondo. Partiamo quindi dai dati sul coronavirus in Italia, forniti come sempre dalla Protezione Civile, anche se sapete che la conferenza stampa ormai ci sarà solo due giorni alla settimana, il lunedì e il giovedì. C'è un calo netto dei malati per coronavirus nel nostro paese, sono infatti 107.709 gli attualmente positivi, 528 in meno rispetto a ieri, quando per la prima volta dall'inizio dell'emergenza si era registrato un calo di 20 pazienti. Sempre però tanti morti, attualmente sono 24.648 le vittime dopo aver contratto contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 534. Nuovo record di guariti, complessivamente sono 51.600 nel nostro paese, con un incremento rispetto a ieri di 2.723. E ancora nessuna frenata netta purtroppo in Lombardia, dove i numeri crescono soprattutto a Milano. E il Presidente del Consiglio Conte oggi, nella sua informativa al Senato e poi alla Camera sulla fase 2, ha annunciato anche 50 miliardi in arrivo ad aprile per famiglie e imprese per contrastare l'emergenza coronavirus. Nessuna fuga in avanti o in ordine sparso. Il Presidente del Consiglio Conte interviene in Parlamento e mette ordine nel dibattito sulla cosiddetta fase 2. La riapertura ci sarà e sarà progressiva ed omogenea. Omogeneo su base nazionale e che ci consenta di riaprire buona parte delle attività produttive e anche commerciali, tenendo però sotto controllo la curva del contagio. Una riapertura graduale, anticipa Conte, sempre utilizzando distanziamento sociale e mascherine, fino a quando, spiega, non saranno disponibili terapia e vaccino. Altro capitolo, quello dell'app Immuni, sarà su base volontaria e senza penalizzazioni. Uno sguardo quindi ai prossimi impegni economici. Riavvieremo il motore del paese, dice Conte, con un programma strutturato, altri 50 miliardi che si aggiungeranno ai 25 già stanziati. Questo ulteriore ricorso al disavanzo servirà a finanziare varie misure destinate, tra le altre, al rafforzamento del personale sanitario, della protezione civile e delle forze di sicurezza. Al 19 di aprile abbiamo distribuito alle regioni, conclude Conte, 3.900 ventilatori e 117 milioni di mascherine. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E mancano due soli giorni al vertice europeo sul pacchetto anticrisi. Conte ha messo nero su bianco la strategia italiana in Parlamento. Non potrò accettare un compromesso al ribasso. O vinciamo tutti o perdiamo tutti. Il prossimo summit europeo non sarà risolutivo, ma faremo di tutto per esprimere un indirizzo politico chiaro. Il Premier Conte in Senato alza la posta in vista del vertice di dopodomani, lasciando intravedere il rischio di un incontro interlocutorio. La posizione italiana non si muove e parte dall'assunto che vadano assolutamente evitati gli errori fatti con la Grecia nell'ultima crisi. Questo metterebbe lo stesso progetto comunitario a rischio. Il MES, o Fondo Salva Stati, resta sempre nel mirino, anche se occorre procedere con cautela. Ormai il dibattito italiano sul tema è spaccato tra tifoserie, avverte il Premier, smentendo un veto di Roma che farebbe torto agli 8 paesi alleati del fronte mediterraneo. Così il focus si sposta sul Fondo Europeo per la Ripresa, vero nodo del vertice. L'Italia spinge affinché si finanzi sotto forma di debito comune sui mercati, sia attivabile subito, legato anche al bilancio europeo come garanzia. E nel dibattito si è inserito anche il presidente dell'Eurogruppo Centeno in audizione all'Europarlamento. There is no stigma, there is no troika. L'eurozona si contrarrà del 7,5% quest'anno, il mercato unico è a rischio frammentazione, avverte Centeno, che sottolinea come le nuove linee di credito pandemiche del MES non comporteranno alcuna troika per i paesi che le richiederanno. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto dall'ufficio parlamentare di bilancio arrivano brutte notizie. Il prodotto interno lordo italiano subirà un crollo del 15% nei soli primi sei mesi del 2020. Un crollo senza precedenti dell'economia italiana dal secondo dopoguerra. A prevederlo è l'ufficio parlamentare di bilancio, che calcola per il PIL italiano nel solo primo semestre dell'anno un crollo del 15%. Il lockdown dovrebbe aver inflitto al primo trimestre un calo del 5% e ancora peggio andrà da aprile a giugno, meno 10%. Secondo gli economisti dell'UPB, inoltre, la richiesta di cassa integrazione potrebbe salire a un valore triplo del dato peggiore degli ultimi 11 anni. Per il momento l'UPB non fa previsioni sull'intero 2020. Secondo Confindustria, il PIL italiano scenderà quest'anno del 6%, con un meno 10 nella prima metà dell'anno e un mini rimbalzo da luglio in poi. Ancora peggio il Fondo Monetario Internazionale, che vede per l'Italia un calo del PIL del 9% nel 2020, peggio del meno 6 degli Stati Uniti, del meno 8 della Spagna e del meno 7,5% medio previsto per i paesi euro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi nell'informativa Camera e Senato il Presidente del Consiglio Conte ha anche parlato dell'app per tracciare la diffusione del virus che tanto sta facendo discutere. La ministra Paola Pisano ha pubblicato una serie di chiarimenti sull'app che in futuro potrebbe servire per contenere nuovi casi di Covid-19 e spezzare le catene di contagio. L'applicazione sarà volontaria e non avrà accesso alla rubrica del telefono o al numero di cellulare, né ad altri dati personali, non userà il GPS, ma solo il Bluetooth per registrare esclusivamente i contatti di prossimità con altri utenti che avranno la stessa app. Un'altra notizia attesa dalla comunità di tecnici e avvocati che si occupano di privacy è che il codice sorgente del sistema sarà rilasciato con licenza open source e quindi come software libero e aperto che si può analizzare. Ancora però non sappiamo quando questo accadrà. In effetti, stando ai chiarimenti pubblicati sul sito del Dipartimento dell'Innovazione, l'app Immuni dovrebbe essere simile ad altre adottate a livello internazionale. La registrazione dei contatti avviene con la generazione di codici anonimi con i quali è impossibile risalire all'identità di chi usa il telefono, ma l'utente che la usa potrà essere avvisato se è stato in contatto ravvicinato con una persona che risultasse poi positiva. Il governo ha poi chiarito che l'autorizzazione all'utilizzo dell'applicazione avverrà attraverso una legge. Altra cosa sono le app regionali, già attiva ad esempio Allerta LOM della regione Lombardia, che chiede di compilare in forma anonima un questionario sul proprio stato di salute a fini statistici. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si allargano ancora le inchieste sulle morti nelle residenze per anziani, fascicoli sono aperti in molte città, ne abbiamo parlato tante volte anche qui effetto notte. A Milano oggi la Guardia di Finanza è stata all'Istituto Dognocchi e appunto anche oggi, nella puntata di oggi, torneremo a parlarne. Intanto spostiamoci all'estero, sono oltre 2 milioni e 500 mila i casi di coronavirus nel mondo secondo i dati della Johns Hopkins University. Oltre 2 milioni e mezzo i contagiati, le persone uccise nel mondo dal coronavirus superano le 170 mila, quanto calcola l'americana Johns Hopkins University. Nel giorno in cui gli Stati Uniti subiscono altre 1.500 vittime in 24 ore, con il totale dei decessi che ormai supera i 42.000, quasi 800.000 i contagi e quasi 2.000 i positivi in un carcere dell'Ohio, il presidente Trump annuncia la sospensione temporanea dell'immigrazione. In Europa, dopo l'Italia, è la Spagna, dove è stata annullata la corsa dei tori di Pamplona, a pagare il prezzo più alto, con oltre 21.000 morti, mentre la Francia ha superato quota 20.000. Annullato in Germania l'Oktoberfest, nuova impennata di vittime nel Regno Unito, 823 in un giorno, e in Svezia, dove si è registrato il numero più alto di morti in 24 ore, 185. Prova a ripartire invece la Polonia, riaprendo i parchi pubblici, e la Danimarca, dove dentisti e parrucchieri sono tornati al lavoro. Guardando ad Oriente, mentre Hong Kong registra il primo giorno a zero contagi, Singapore accusa un nuovo boom di casi, oltre 1.000 al giorno, ed estende il lockdown fino al 1° giugno. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo del caso dello studente George Zaki, stata rinviata per la sesta volta, come al solito di una settimana, l'udienza in cui deve essere deciso se prolungare di altri 15 giorni la custodia cautelare di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere al Cairo con l'accusa di propaganda sovversiva. Lo ha riferito all'ANSA una sua legale, Oda Nasrar. Amnesty chiede che sia cambiata strategia per liberare Zaki. Sentiremo qui a effetto note, sarà ospite il portavoce di Amnesty Italia. E adesso di nuovo in Italia per parlare delle decisioni della ministra dell'Interno Lamorgese sugli irregolari. La ministra dell'Interno Lamorgese interviene dopo le polemiche sulla proposta di una sanatoria per gli stranieri irregolari che lavorano nel settore agricolo. I numeri non sono quelli circolati in questi giorni, precisa la responsabile del Viminale, secondo la quale una regolarizzazione sarebbe necessaria anche per una questione di sicurezza. Vorrei dire che non è nei termini di 600.000. Avrà non certo la regolarizzazione di tutti quelli presenti, ma di quelli che servono, perché un problema che si pone è il problema della raccolta. La proposta di una sanatoria è della ministra Bellanova, secondo la quale per salvare la filiera dell'agricoltura messa in ginocchio dall'emergenza coronavirus è necessario regolarizzare i braccianti strappandoli al caporalato. A favore si dicono Partito Democratico, Italia Viva e in parte anche il Movimento 5 Stelle, mentre un secco no arriva da tutto il centrodestra. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sapete che si continua a discutere nelle ultime settimane ancora delle varie ipotesi sull'origine del coronavirus. Ebbene, è falsa e infondata l'ipotesi del Nobel Luca Montagnier secondo la quale il nuovo coronavirus sarebbe nato in laboratorio a Wuhan. Lo sostiene la Federazione Italiana Scienze della Vita, che riunisce 16 società scientifiche per un totale di quasi 10.000 scienziati. Per evitare fake news come quelle incoraggiate dalle dichiarazioni di Montagnier, i ricercatori invitano a non prendere automaticamente per oro colato quello che viene da un premio Nobel, semplicemente perché ha questo titolo, anche perché questo particolare Nobel da molti anni, dicono, sostiene bufale scientifiche e getta discredito sulla scienza sana. Sempre la Federazione degli Scienziati rivela in una nota che l'ipotesi di Montagnier si fonda su una ricerca indiana pubblicata su un sito non filtrato da revisori scientifici e ritirata perché la comunità scientifica ne aveva immediatamente segnalato le falle, e su un articolo pubblicato su una rivista cosiddetta predatoria, di quelle che pubblicano qualsiasi cosa purché gli autori, dicono sempre questi 10.000 scienziati, paghino laute cifre. E poi 94 anni di Elisabetta II, compleanno decisamente sobrio a causa della pandemia per la regina più longeva del mondo, ne parleremo. Ha festeggiato così appunto in modo molto contenuto con il consorte Filippo di 98 anni. E adesso per chiudere dallo sport, uno sfogo shock, diciamo, dell'attaccante dell'Inter, Lukaku. 23 giocatori su 25 della rosa con febbre e tosse. In queste condizioni l'Inter scese in campo a gennaio nella gara pareggiata 1-1 contro il Cagliari a San Siro, e il difensore Skriniar quasi svenne tanto da dover essere sostituito dopo neanche 20 minuti. A testimoniarlo via Instagram il bomber dei nerazzurri Romelu Lukaku. Nessun test in quel momento sui giocatori, ma parole che fanno pensare in vista della ripartenza del campionato, che pure la Lega Calcio vuole, e stavolta all'unanimità, come sottoscritto da tutti e 20 i club in assemblea dopo le divisioni dei giorni scorsi. Insomma, tutti d'accordo nel riprendere nel rispetto dei protocolli sanitari e per salvaguardare i contratti TV. Ora si attende il vertice col ministro dello sport Spadafora per ridare il via magari dal 4 maggio agli allenamenti e poi ricominciare a giocare probabile nel primo weekend di giugno. Poi per tutto luglio sarà Serie A e Coppa Italia, ad agosto le coppe europee come auspicato dall'UEFA, sempre che il coronavirus sia d'accordo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con lo sport direi di chiudere questa prima parte di Effetto Notte per proiettarci verso gli approfondimenti con gli ospiti tra poco dopo la viabilità. 349-238-6666, numero per i vostri commenti via SMS e WhatsApp, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte. Promo 24. Sono tanti i settori in crisi a causa del coronavirus. Uno dei più colpiti è il turismo ed eventi, tra i più importanti motori dell'economia e della cultura italiana. I principali operatori del turismo chiedono a gran voce un fondo straordinario per fronteggiare la crisi. Le associazioni Astoi, Confindustria Viaggi, FTO e importanti operatori del comparto hanno promosso il Manifesto del Turismo per l'Italia, che con l'hashtag Ripartiamo dall'Italia chiede il sostegno di tutti per la ripartenza del turismo. Operatori del settore e consumatori possono aderire al manifesto sulla piattaforma change.org. Salviamo il turismo, salviamo l'Italia. Info e aggiornamenti su ripartiamodallitalia.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tantissime le notizie che come sempre vi ho riassunto nella prima parte della puntata di Effetto Notte. Adesso invece addentriamoci dentro alcuni temi in particolare con gli ospiti. Per i vostri messaggi 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte, che lì per voi comodamente giorno e notte. C'è un ascoltatore che dice: clamoroso lo sfogo di Lukaku, appunto avete sentito poco fa il servizio sull'attaccante dell'Inter, che dice che appunto durante una partita erano già tutti, sembravano malati, febbricitanti. La FIGC chiede, l'ascoltatore o ascoltatrice, apra le indagini. Si prospetta adesso davanti a noi una fase molto complessa. Dobbiamo procedere a un allentamento del regime attuale delle restrizioni che riguardano le attività produttive e commerciali. Dobbiamo fare il possibile, evidentemente, per preservare l'integrità, l'efficienza del nostro tessuto produttivo. I motori del paese devono riavviarsi, ma questo riavvio deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato, articolato, che comporti una revisione dei modelli organizzativi di lavoro, delle modalità del trasporto pubblico, ma anche privato, di tutte le attività connesse. Ecco, diciamo che in questo primo passaggio del Presidente del Consiglio Conte, oggi in questa lunga informativa che ha tenuto prima al Senato e poi alla Camera, c'è un po' il riassunto del percorso che il Governo intende tracciare e organizzare per la cosiddetta benedetta fase 2, cioè per ricominciare a riaprire, come ha detto, a riaccendere i motori del paese. Quindi ha detto, illustrando appunto questo percorso, che ci saranno appunto mascherine e distanziamento necessarie finché non si troverà il vaccino, fino a quando non ci saranno terapie, appunto, il vaccino. Poi il programma di riapertura dovrà avere una sua omogeneità nazionale, ma questo lanciando un messaggio appunto ai vari presidenti di regione, chi vuol partire prima, chi vuol partire dopo, soprattutto prima, diciamo. Poi un sostegno ancora più incisivo le fasce sociali più fragili, una revisione del modello organizzativo del lavoro, delle modalità di trasporto pubblico. Poi ha cercato di rassicurare anche sulla famosa app per il tracciamento della diffusione del virus, di cui vi ricordo appunto qui a Effetto Notte abbiamo parlato con diversi esperti. E poi a proposito tra due giorni ci sarà importante vertice europeo dell'Eurogruppo, e quindi ha ricordato la trattativa in corso dell'Italia con gli altri paesi europei per decidere quali saranno gli strumenti economico-finanziari per affrontare la crisi dovuta al coronavirus. Allora, stasera voglio fare un esperimento molto particolare, mettere insieme per commentare due cervelli. Uno è quello di Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Cara Barbara. Buonasera. E l'altro quello di Alberto Rioli, vice direttore sempre del Sole 24 Ore. Alberto. Buonasera a tutti. Ciao, ce la faremo, ecco, a mettere insieme questi cervelli sinteticamente. Allora, Barbara, farei sentire ancora uno dei tanti passaggi, appunto, perché questa informativa è stata piuttosto lunga e articolata, di Conte a proposito del Comitato per la Ripartenza. Reputo doveroso informare il Parlamento circa la strategia che il Governo sta elaborando proprio in questi giorni, allo scopo di procedere a un progressivo ma ordinato allentamento delle misure. Per questa finalità, con specifico DPCM, sempre il 10 aprile, ho istituito un comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare proposte utili per orientare il governo nelle decisioni che dovrà assumere al riguardo. Questo comitato di esperti sta agendo di concerto con il comitato tecnico-scientifico affinché le strategie individuate per la ripartenza economica si basino su imprescindibili precondizioni di sicurezza. Ecco, questo lo sottolinea da tempo Conte e naturalmente gli esponenti del governo. Sentiamo anche sulla questione delle riaperture omogenee su scala nazionale, Conte. Con l'ausilio di questi esperti stiamo elaborando un programma di progressive aperture omogeneo su base nazionale e che ci consenta di riaprire buona parte delle attività produttive e anche commerciali, tenendo però sotto controllo la curva del contagio in modo da intervenire laddove questa si rinnalzi oltre una certa soglia. Un altro annuncio importante, poi sentiremo altri passaggi, ha detto Conte: nel prossimo decreto per l'emergenza saranno stanziati non meno di 50 miliardi di aiuto alle imprese e alle famiglie, in modo che si assommino ai precedenti 25 miliardi annunciati, diventano 75 miliardi. Allora, un primo commento vorrei sentirlo da te, Barbara, a proposito di questo percorso tracciato, illustrato in parte oggi da Conte per la fase 2. Ha confermato quanto si è detto in questi giorni, ovvero il governo sta per procedere, anche perché tra 10 giorni scadrà il decreto che ci ha vietato di uscire di casa fino al 3 maggio prossimo, e ha detto che appunto piano piano si procederà delle ripartenze, si procederà alla ripartenza, al ritorno non alla normalità, perché appunto lui ha confermato il divieto, il stare senza mascherine, quindi però insomma qualcosa distanziamento, cambierà. L'app, e forse sì. Anche l'altra partita, quella sui 50 miliardi di scostamento annunciati oggi, insomma, sono una cifra imponente, anche perché sommata ai precedenti 25, sono una cifra imponente che però dicono anche, attesta questa cifra anche la gravità della situazione. E in tutto questo sappiamo che c'è un vertice dopodomani, giovedì, al quale insomma siamo un po' tutti appesi, non solo noi italiani, siamo un po' tutti appesi. È chiaro che oggi, devo dire, il Presidente del Consiglio mi sembra che abbia cercato, come dire, soprattutto di dare rassicurazioni, no? In particolare agli italiani, cioè, cercando di assicurare il fatto che si terranno tutte le misure di sicurezza, di attenzione, che appunto nulla sarà, non ci sarà un atteggiamento adesso è finita l'emergenza e quindi perché si potrebbe vanificare tutti i sacrifici di tutti, ovviamente. Però allo stesso tempo ci ha tenuto appunto a rassicurare di un ritorno alle attività, al lavoro, perché il problema grave, molto grave, è quello appunto economico, dell'emergenza economica. A questo proposito, le cifre lo dicono. Alberto, quindi parlavamo con Barbara Fiammieri appunto di questi 50 miliardi, ma intanto per quanto riguarda i prestiti alle imprese, no? Si parlava di questi 25 mila euro. A che punto siamo con l'erogazione? C'è stata una grande corsa a rendere possibili e armonizzate le procedure software informatiche per processare appunto le domande che si immaginavano e sono state effettivamente moltissime. Sono due giorni che praticamente sono i giorni iniziali di rodaggio, soprattutto per il prezzo fino a 25 mila euro, che è quello che prevede la totale garanzia pubblica, e un bagaglio di documenti teoricamente più leggero di quello degli altri prestiti che chiedono ammontari più grandi e hanno una copertura pubblica un po' più ridotta. In realtà comunque si è visto che la quota di documenti da presentare, di procedure da attivare, non è banale, è molto più pesante di come si pensava. Non a caso Patuelli oggi, che è poi il presidente dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ha spiegato che non è un problema di bizantinismo delle banche, ma è un problema di farraginosità e di difficoltà della normativa, perché si è andata a sovrapporre le normative precedenti senza abolirle, e questo costringe gli operatori effettivamente a un percorso di burocrazia e di modulistica particolarmente difficile. Ce ne vogliono una dozzina almeno di documenti più o meno che una partita IVA che magari prende 30.000 euro l'anno deve presentare per avere poche migliaia di euro, perché poi ricordiamolo, fino a 25.000 euro con la clausola che deve essere un quarto del fatturato dell'anno precedente, quindi puoi chiedere 25.000 euro se avevi fatturato 100.000 euro. Insomma, c'è un po' di difficoltà, le domande a noi risulta che ne sono arrivate quasi 100.000 sostanzialmente in 48 ore, ma le erogazioni sono ancora fatte col contagocce, anche se la macchina si sta rodando e dovrebbe essere in via di miglioramento. L'aspettativa che tutti dicono è che questi prestiti, a fronte poi della documentazione, una volta che sia riscontrata come regolare e valida, possono essere erogati in 24 ore. Senti Alberto, solo un particolare, c'è un ascoltatore, Mauro, che è due giorni che mi scrive che lui cerca di accedere al sito dell'INPS, ma è scritto solo in inglese, quindi non capisce, mi pare strano. Ma mi sembra molto strano, non so che avrà aperto qualche altro sito, magari il nostro Mauro, non lo so, un sito fantasma, Può darsi. Barbara, allora, intanto già si è detto in questi giorni che serve una legge parlamentare, no? Quindi per questa app, che poi dovrà essere volontaria, lo ha ribadito oggi anche il presidente del Consiglio Conte, perché bisogna poi verificare che non ci siano delle criticità, ne abbiamo parlato appunto con gli esperti in questi giorni. Conte si è detto anche molto aperto alle proposte che l'opposizione farà, però l'opposizione non è sembrata, diciamo, molto in linea, molto d'accordo con questa così proclamata apertura di Conte, perché per esempio Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, oggi ha detto che Conte non è stato disponibile al confronto. È stato piuttosto animato l'intervento di Meloni in Parlamento. Conte non è stato disponibile al confronto, dice forse sarà perché frequenta così spesso la Cina che pensa di avere i poteri di Xi Jinping, e poi ha detto in realtà Conte lavora con il favore delle tenebre e non è trasparente come dice di essere. Che ti sembra, Barbara, di queste accuse nei confronti di Conte? Allora, mi sembra che facciano parte un po' dello solito schema di gioco tra maggioranza e opposizione. Detto questo, secondo me ci sono intanto atteggiamenti diversi all'interno dell'opposizione, cioè tra i partiti di opposizione del centrodestra, ovvero mi sembra che ci sia un atteggiamento molto più polemico e virulento da parte della Lega, meno, soprattutto all'inizio, adesso anche Fratelli d'Italia ha alzato i toni, da parte di Fratelli d'Italia è ancora molto meno virulento da parte di Forza Italia, che ha sostenuto proprio apertamente, come dire, una linea di responsabilità. Non che gli altri non vogliano essere responsabili, però insomma anche i toni, no, contano nel far capire quanta questa collaborazione può essere effettiva. È vero quello che dicono le opposizioni, però, che finora nessuna delle loro proposte ha trovato spazio nei provvedimenti emanati dal governo. Però è anche vero che il governo a sua volta ha assicurato alle opposizioni che nel prossimo decreto legge, il cosiddetto decreto aprile, quelli che erano le loro proposte di modifica agli attuali provvedimenti verranno inserite. E devo dire che l'ordine di grandezza del decreto, cioè oggi Conte ha detto che sarà almeno di 50 miliardi di euro, sì, le opposizioni dicevano 75. Quindi, per carità, 25 miliardi non è che non sono nulla, però voglio dire, c'è un avvicinamento anche da questo punto di vista. Cioè, secondo me il problema principale è che vediamo sempre un po' troppo le cose con un atteggiamento anche ideologico, per cui non si riesce mai a volare un pochino più alti rispetto a quelli che sono i problemi da affrontare, ma è un discorso che vale tanto per l'opposizione quanto per la maggioranza. E anche credo divisa che al suo interno. Alberto, scusami Barbara, Giuseppe Darò dice, magari sappiamo rispondere, dice: sono una partita IVA in pensione, pago tasse INPS, tutto ciò che ne consegue, posso accedere al bonus di 600 euro? Premetto che di pensione percepisco 1000 euro mensili, pago l'affitto del laboratorio dove lavoro, 450 euro mensili, però ha detto che è in pensione. Grazie, sai rispondere Alberto? Un po' è una cosa un po' troppo individuale, troppo soggettiva. Sì, sì. Non vorrei dire una cosa per un'altra. Disillusioni in vano. No, infatti era perché mi era così capitato sotto gli occhi fra i tanti messaggi. Adesso farei sentire invece Conte sulla questione del MES, che dovrà discutere appunto giovedì in sede di Eurogruppo. Dice le tifoserie sul MES, su questo fondo salva stati, usarlo o non usarlo adesso che è stato mitigato senza condizionalità eccetera. Prima Conte era assolutamente contro, non ne voleva sapere di usare il MES come strumento europeo per affrontare la crisi economica. Chiedeva soltanto gli eurobond o i corona bond. Adesso però sembra un pochino aver ammorbidito la linea, anche se il Movimento 5 Stelle continua a essere assolutamente contrario, il PD invece no, anche Forza Italia sarebbe favorevole al MES, a prendere almeno i soldi che danno per il momento con questo fondo salva stati, mentre per esempio anche assolutamente contraria è la Lega. Ma sentiamo Conte, che dice che bisogna decidere dopo una valutazione dei dettagli. Sono io il primo a dire che bisognerà valutare attentamente i dettagli dell'accordo. Solo allora potremo valutare in via conclusiva se questa nuova linea di credito pone condizioni. Quali condizioni pone? Solo allora potremo discutere se il relativo regolamento può essere o meno conforme all'interesse nazionale, se può essere o meno conveniente e opportuno rispetto, diciamo, agli interessi nazionali. Quindi Alberto, ancora non è detto nulla, però c'è una linea, a parte almeno per quanto riguarda Conte, così più riflessiva, valutativa. Che cosa ti aspetti giovedì, in sintesi? Ma guarda, ho trovato interessante la sintesi che ne ha fatto l'agenzia Bloomberg, quindi osservatori che guardano per così dire da fuori con altri occhi rispetto ai nostri, che hanno scritto che Conte oggi ha avuto un conciliatory approach, cioè un approccio più conciliante rispetto ai temi del MES e del fondo di diretta emanazione dell'Unione Europea. Siamo alla tattica diplomatico-negoziale, è evidente, però è chiaro che non c'è più la sensazione, almeno dallo speech di oggi in Parlamento, che questo MES sia il drappo rosso, per cui bisogna scappare a dire no MES, no MES, no MES, come si diceva no TAV, e per l'appunto poi la TAV si fa. Io credo che si finirà così. Il MES sarà uno degli strumenti, dei quattro strumenti importanti che l'Europa metterà nero su bianco finalmente, che il bazzucchino, diciamo così, di 200 miliardi della Banca Europea degli investimenti, appunto per investimenti in infrastrutture europee, i 100 miliardi del progetto Sure, che è quello che finanzierà la disoccupazione europea per chi ha perso il lavoro, il nuovo fondo da un trilione, come si suol dire, 1000 miliardi o anche 1500 di diretta emanazione dell'Unione Europea, che è la cosa più importante, perché sarà la vera innovazione che consentirà di condividere una forma di debito tra i 27, e il MES rivisto con condizionalità soft o annullata, come ha sempre, come dice Regling, che è del MES direttore. Vediamo, vediamo giovedì. Gli strumenti saranno sul tavolo, sarà importante la narrativa che ciascun paese poi farà dei risultati ragionevoli. Certo. Alberto, ti giro questa domanda, alla quale ovviamente saprai rispondere meglio tu. Dice questo ascoltatore, vorrei sapere, e magari sapete svelare l'arcano mistero, perché in tutto questo periodo di chiusura di ogni cosa, di economia che va a rotoli, le borse sono rimaste aperte per speculare su una situazione così difficile, chiudere tutto, le borse no? Questo è un dibattito che si è fatto nell'immediatezza dell'esplosione del contagio e aveva teorici robusti anche che chiedevano di fare come aveva fatto praticamente Wall Street in occasione dell'11 settembre, però dall'altra parte non erano ancora valutate appieno tutte le conseguenze della pandemia, che ancora non era tale. E soprattutto sono di più i teorici che dicono che sostanzialmente, come sempre, la borsa poi sale e scende, gli effetti si azzerano, anche per quanto particolarmente preda di volatilità da shock e di vendite da panico, e quindi effettivamente poi guardato in un periodo più lungo il ciclo della borsa è in grado di recuperare le perdite che ha maturato prima. Quindi effettivamente i teorici veri del mercato finanziario dicono che la borsa andrebbe lasciata aperta sempre. Sempre. Allora, adesso avete 4 secondi a testa, Barbara Fiammeri e Alberto Rioli, per rispondere a questa domanda. Allora, la deputata Maria Elena Boschi di Italia Viva è tornata a parlare di questo bonus, la proposta di un bonus a 500 euro per le famiglie, specie con minori, per fare le vacanze in Italia. Ora, io dico, probabilmente se facciamo le vacanze saranno per forza in Italia, perché sono praticamente domani, e è chiaro che non abbiamo potuto muoverci tra comune e comune in Italia in questo momento, figuriamoci andare all'estero. Ma soprattutto, si faranno le vacanze estive? Voglio una risposta molto sintetica, prima da Alberto, poi da Barbara. Io penso che si faranno le vacanze un po' più ridotte e un po' più a un giro di compasso un po' più stretto di quello che non si sarebbe potuto fare prima. E anche l'idea di incentivare comunque il Made in Italy in questo caso secondo me non è così peregrina. Barbara? Sì, torniamo alla villeggiatura. Un tempo si diceva si va in villeggiatura, ecco, io penso che torneremo alla villeggiatura. Quindi si andrà, quindi saranno si andrà. Sfruttate molto le seconde case. E chi non ce l'ha? Sì, saranno vacanze probabilmente più brevi, anche perché molte aziende hanno già detto che vorrebbero sfruttare quella che un tempo è stata, fino allo scorso anno, a dir la verità, la pausa estiva per lavorare. In parte limitare le perdite accumulate in questi mesi. Insomma, per molti questa estate sembra una specie di miraggio. Bene, ringrazio Alberto Rioli, Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, grazie della vostra compagnia, del vostro contributo. Ci prendiamo una pausa di riflessione, di respiro, voi continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure sms e whatsapp al 349-238-6666. Torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, cioè ascoltare la giusta trasmissione e anche essere nel posto giusto a casa vostra, a meno che non abbiate orari particolari di lavoro. Roberta Giordano sempre con voi, e direi di continuare allora con le tante notizie, con gli approfondimenti insieme agli ospiti, mentre vedo tanti vostri messaggi anche sulla la federazione di scienziati, 10.000 scienziati che contrastavano e smentivano l'ipotesi di Luc Montagnier sull'origine del virus. Insomma, poi ognuno ha la propria posizione, però bisogna un po' attenersi anche alle cose che man mano insomma si vedranno. Per il momento non ci sono prove schiaccianti né dell'una né dell'altra cosa. Sentiamo Ilaria Capo, a proposito, che lei ha sempre parlato dell'origine animale, continuare a fare uscire il contagio alla spicciolata. Vorrei spezzare una lancia per me stessa, visto che oggi è il mio scienziata compleanno. Italiana famosa. Perché come ho la regina tutti Elisabetta. I nonni d'Italia che sono arrabbiati con me, e io in realtà non volevo farli arrabbiare, io volevo soltanto dire che i nonni d'Italia sono le persone che noi dobbiamo proteggere, e quindi quando ho detto che purtroppo non sarà possibile, fino a quando non avremo gli strumenti per capire chi è immune e chi no, Non sarà più possibile quella frequentazione con i nipoti come c'era un tempo, perché insomma, i nipoti cose che ci fanno un pochino appesantire il cuore, e anche le cose di cui parleremo tra pochissimo. Comunque oggi è, tra l'altro, sono passati 2 mesi esatti dal caso dell'ormai famoso, suo malgrado, paziente 1 di Codogno, cittadina del Lodigiano, a sud di Milano, il giovane runner, vi ricordate, contagiato da Covid-19, che segnò ufficialmente l'inizio della pandemia in Italia, o quantomeno la presa di coscienza che il coronavirus fosse arrivato nel nostro paese. Codogno divenne, ricordate, immediatamente zona rossa insieme ad altri comuni limitrofi. Quella stessa drammatica sera il sindaco di Codogno, Passerini, fu ospite, intervenne qui a Effetto Notte. Sentiamo giusto un breve passaggio di allora, di 2 mesi fa. La lunga giornata dopo inizia la mezzanotte di sera, quando c'è stato appunto segnalato questa presenza presso il pronto soccorso da lì. E posso confermare quella che è stata un protocollo che è partito immediatamente nel momento stesso che è stato, e anche c'era stato comunque il dubbio che un paziente potesse aver contratto questo virus. Ecco, e questo è appunto Passerini, il 21 febbraio, due mesi fa, il sindaco di Codogno. Però diverso tempo dopo, tuttavia, si è capito che il virus girava già da prima, vero Raffaella Calandra, in Italia? Ciao Roberta. Ciao, sì, ahimè, a quanto pare girava già da almeno un paio di mesi. Io quel giorno di 2 mesi fa ero a Codogno quando si ebbe la notizia del primo contagiato italiano, e nelle ore in cui questa cittadina del Lodigiano appunto si stava progressivamente chiudendo, con tutte le chiusure che poi avremmo sperimentato nell'Italia intera. E si pensava allora, quel 21 febbraio, che tutto era cominciato lì, da questa cittadina della Lodigiano e dai contatti di questo che appunto per tutto il mondo occidentale è diventato il paziente 1. In realtà, col passare delle settimane, è stato sempre più chiaro che il virus girava in Lombardia e soprattutto nella Bergamasca già da gennaio, se non addirittura da fine dicembre. E insomma, tu, in proposito, hai fatto anche un'intervista importante, Raffaella. Abbiamo ricostruito a Storiacci in una puntata di un paio di settimane fa tutti i segni della sottovalutazione, cioè della presenza di questo virus, laddove i medici della zona e i sacerdoti e anche i manager delle ATS locali avevano già la conferma di tutte queste polmoniti anomale, come ci ha raccontato anche un medico di base di un paese della Bergamasca, Pietro Poidomani di Cividale al Piano. Noi pensavamo che fosse un mancato funzionamento dei vaccini antinfluenzali in un primo momento. Personalmente ne abbiamo fatte tantissime di radiografie. Queste broncopolmoniti anche proprio di tipo interstiziale? Sì, forse la maggior parte. Il virus ha cominciato a girare qui a gennaio o addirittura alla fine di dicembre. Quindi anche paragonati rispetto ai casi che avete visto negli anni precedenti, i numeri... Sì, non c'era paragone. Io non mi ricordo un anno in cui abbia fatto effettuare tante radiografie al torace. Quindi già, diciamo, da dopo Natale o comunque gennaio c'erano questo tipo di polmoniti anomale che giravano in un'area che poi sarebbe diventata uno dei focolai peggiori. Però voi non avevate ricevuto alcun tipo di allerta rispetto alla possibile circolazione? La prima allerta è stata quella del 31 gennaio, perché c'era l'input dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il fatto che sia stato trovato il 20, secondo me, è stato un ritardo enorme, perché già un ente, che ne so, la regione, già verificando i dati, ad esempio vediamo quante radiografie e tacche al torace sono state fatte a gennaio, avrebbero potuto già agganciare diverse persone dove avrebbero trovato tanti positivi, secondo me. Importante questa intervista, Raffaella Calandra. Per chiudere, appunto, è un medico di base che ha intervistato Pietro Poidomani, medico di base, ha detto, a Cividate al Piano, nella Bergamasca, che visitando i suoi pazienti più anziani ne aveva visto uno dopo l'altro che avevano gli stessi sintomi, aveva fatto le radiografie, però non era stato ascoltato, no? Quando aveva un po' allertato lui, le istituzioni sanitarie. Lui come molti altri medici di base di quella stessa area avevano notato appunto tutte queste polmoniti così anomale. Il punto qual è che i protocolli che erano stati mandati e mandati soltanto a fine gennaio stabilivano di far scattare il rischio del contagio da coronavirus soltanto per le persone che avessero un collegamento diretto con la Cina, che fossero provenute direttamente dalla Cina o con un contatto diretto con una persona di ritorno dalla Cina. Tutto questo in un mondo così globalizzato si è scoperto essere estremamente, diciamo, vacuo, tant'è vero che anche il famoso paziente 1, che infatti fu scoperto proprio perché si ricordò che aveva avuto una cena con una persona che era tornata dalla Cina, che invece era un manager, che invece era negativa, perché poi invece il contatto passava attraverso la Germania. Insomma, come a dire, in un mondo globalizzato le cose non possono che essere diciamo estese a tutti e non soltanto unidirezionali. Grazie Raffaella Calandra. Ciao cara Raffaella. Ciao Roberta, grazie a te. Ciao. Ciao. Viabilità. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, riprendiamo il filo degli approfondimenti e degli ospiti. Risentirei ancora un passaggio sulla 7, vediamo Ilaria Capo, la scienziata italiana negli Stati Uniti. Grazie professoressa, resta con noi. Basta. Resta con loro, ma non resta con noi in questo momento, perché dobbiamo spostarci invece su un altro tema che non è direttamente legato al coronavirus, però è comunque estremamente drammatico. Voi vi ricordate naturalmente il caso di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano che fu arrestato, orrendamente torturato e ucciso in Egitto, e ancora adesso i genitori e tutta l'Italia, insomma, chiede la verità su quella terribile morte. L'Egitto tante volte ha illuso i nostri inquirenti, le nostre istituzioni, finora non ha dato nessuna risposta. Ecco, vediamo che non succede la stessa cosa per Patrick George Zaki, che è uno studente egiziano che studiava all'Università di Bologna, poi è voluto tornare brevemente in Egitto per visitare i suoi genitori, è stato arrestato e adesso è ancora in carcere, viene rimandata di settimana in settimana, di 15 giorni in 15 giorni l'udienza per vedere se proseguire con questa carcerazione oppure no. Amnesty International è convinta che bisogna cambiare strategia per riuscire a liberarlo. E allora vediamo come ce la spiega questa strategia Riccardo Nuri, che è portavoce di Amnesty International Italia, che ringrazio. Buonasera Nuri. Grazie a lei, buonasera. Quindi come facciamo a accendere i riflettori su Zaki, che siano efficaci, che si riesca a giungere a buon fine, insomma, a riportarlo, a farlo liberare, a riportarlo in Italia, se intende restare in Italia? Beh, per 70 giorni ci siamo affidati alla procura egiziana, alle udienze che venivano via via convocate, poi sconvocate, poi rinviate. Ora ci siamo resi conto che è come se ci fosse un computer impazzito che aggiorna via via le date mano a mano che le udienze non si svolgono, in un paese nel quale il sistema giudiziario è bloccato per via della pandemia da Covid-19. Allora io credo che anziché aspettare la prossima data, e siamo giunti oggi al 6° rinvio consecutivo, per provare a dimostrare alla procura antiterrorismo del Cairo che Patrick è tutto e meno che un terrorista, noi dobbiamo puntare su un'altra questione, e cioè che qui questo è il legame col coronavirus. Patrick è asmatico, si trova in una prigione sovraffollata al Cairo, a rischio di contagio anche per le condizioni igienico-sanitarie assolutamente inadeguate, e quindi chiediamo che sia rilasciato per motivi umanitari con un provvedimento di urgenza che dovrebbe aiutare a proteggerlo dal contagio. Quindi questo potrebbe essere, diciamo, l'escamotage, ma secondo lei Riccardo Nuri sarà diciamo uno strumento che possa effettivamente servire per convincere le autorità egiziane, visto insomma l'esperienza che abbiamo, no? Rispetto al loro atteggiamento e alla loro comprensione? Beh, non c'è la certezza ovviamente, però già questa sera abbiamo ripreso i contatti con un po' di soggetti con cui abbiamo fatto i primi 70 giorni di campagna insieme, parlo dell'Università di Bologna, parlo del Comune di Bologna, domattina ci risentiamo per sviluppare un'iniziativa comune che certamente avrà per destinatario il governo italiano e attraverso il governo di Roma, la Farnesina, l'ambasciata italiana al Cairo, perché questo provvedimento umanitario per motivi di salute deve essere preso al più presto, perché qui non è più in discussione l'innocenza di Patrick, è in discussione la sua salute e la sua vita. Quindi la prossima mossa strategica, Riccardo Nuri, che si può fare, lei diceva appunto di questi incontri, di questa collaborazione con l'Università di Bologna, con le istituzioni, però poi la prossima mossa concreta da fare nei confronti del governo egiziano, quindi... Passare attraverso l'ambasciata italiana al Cairo, che è pienamente in funzioni, come sappiamo, dall'agosto 17, era stata riaperta in pieno servizio perché questo avrebbe favorito la ricerca delle verità per Giulio Regeni, così non è stato, vediamo se questa volta riesce a favorire un provvedimento umanitario in favore di un detenuto che sta male. Si potrebbe fare leva, Nuri, per chiudere sul fatto che appunto su Regeni è successo quello che è successo, questa cosa terribile, non ci sono state risposte, non c'è stata giustizia, verità, e quindi diciamo una specie, se vogliamo usare questo termine, di compensazione nei confronti dell'Italia? E potrebbe essere anche questo, ma io credo che la lezione che dobbiamo apprendere da questi ultimi 4 anni, e questa riguarda il governo italiano, è che mantenere e rafforzare l'amicizia e chiedere quasi come fosse un favore di fare qualcosa non ha funzionato. Quindi forse occorre un cambio di direzione, una posizione, qualche segnale di inimicizia, qualche pressione, perché altrimenti nulla che riguardi i diritti umani in Egitto potrà cambiare. Già, grazie, e allora buon lavoro, ci aggiorniamo su questo caso, Riccardo Nuri, sul caso di Zaki. Grazie. Grazie, buonasera. Grazie intanto a Amnesty Italia. Oh, vediamo se nel frattempo riusciamo a sentire magari una dichiarazione del vice ministro della salute Sileri sulla 7, però per il momento mi sembra che sia in ascolto degli altri ospiti, e direi di passare ad altro. Oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, spegne 94 candeline la sovrana più longeva del mondo, Elisabetta II. Naturalmente non è una festa come le altre, non c'è la solennità, il fasto delle celebrazioni per i suoi compleanni, perché chiaramente anche la Gran Bretagna è schiacciata da Covid-19. Ne parliamo con la nostra Enrica Roddolo del Corriere della Sera. Ciao Enrica. Esperta. Buonasera. Di teste coronate, di famiglie reali, e tra l'altro ha scritto un sacco di libri. L'ultimo in uscita a maggio è I segreti di Buckingham Palace. Enrica, sì, quindi esatto. Niente spari a salve dai cannoni, niente sfilate. Sì, un compleanno sicuramente atipico per Elisabetta II, ma è stato un anno decisamente bumpy, come l'ha definito lei già nel suo discorso di Natale, quando accusò i primi colpi delle disavventure del principe Andrea e tante figlio. Altre cose successe nei mesi scorsi. In realtà la sovrana, la regina Elisabetta II, la più longeva regnante, come hai detto tu, sul trono della Gran Bretagna, con 68 anni di regno oramai effettuati, tanto da sorpassare la regina Vittoria, si è rivelata in questo inizio di 2020 così devastante per la pandemia globale un vero e proprio ago della bilancia, un elemento di certezza e di riferimento non soltanto per la Gran Bretagna ma per il mondo intero. Basti pensare all'attenzione che c'è stata per il suo discorso straordinario dal castello di Windsor, sì, diretto alla popolazione britannica per appunto rinsaldare il morale e incoraggiare tutte le iniziative per contrastare questa straordinaria pandemia. Tra l'altro a fronte internazionale che ha avuto. Sì. Enrica, tra l'altro a fronte del primo ministro Boris Johnson che si era ammalato, no? Assolutamente, quindi ha colmato un vero e proprio vuoto di istituzionale, se vogliamo, un vuoto istituzionale, l'ha fatto con una eleganza e una sobrietà che veramente ha fatto pensare che a volte la nostra, ho scritto nel mio commento per questo compleanno sul Corriere della Sera, ha fatto pensare forse anche meglio alla nostra società, con una società che rincorre il giovanilismo a tutti i costi, e invece la sovrana Elisabetta con i suoi 94 anni ha dimostrato che una donna della sua saggezza, della sua esperienza, ha potuto tenere salde le redini del paese in un momento così delicato. Così difficile. Tra l'altro con accanto sempre il consorte Filippo, che ha 98 anni, quindi è eccezionale il fatto che in coppia siano arrivati a questa veneranda età, Enrica, no? Sì, e tra l'altro Filippo il prossimo 10 giugno si avvicinerà ancora di più alla vola dei 100 anni, perché festeggerà i suoi 99 anni. Ufficialmente dal 2017 si è ritirato dalla vita pubblica, ma proprio un giorno fa il principe Filippo ha deciso di scendere anche lui in campo con la sua voce, anche lui per dare manforte e sostegno morale a tutti quanti nel Regno Unito stanno lavorando, come d'altronde si sta lavorando in tutto il mondo, in Italia in primis ovviamente, per contrastare questo dramma del Covid-19. Tra l'altro Carlo a questo punto non ha speranze, perché qui intendono arrivare oltre i 100 anni i due consorti, la regina Elisabetta, a regnare. Senti Enrica, siccome ci stiamo lasciando, visto che il tuo ultimo libro a maggio si chiama I segreti di Buckingham Palace, ci sarà scritto anche che cosa mangiano la regina Elisabetta e Filippo per essere così longevi, in salute, perfetta, in forma? Ma certamente, ci sarà scritto questo ed altro, sì, perché I segreti di Buckingham Palace sarà il racconto della straordinaria avventura umana della firm dei Windsor, una vera azienda, un'azienda direi oramai multinazionale, a parte che il Commonwealth, non a caso la regina è capo di Stato a Londra, ma in 16 altri paesi, e la rete del Commonwealth è ancora più vasta, sembra veramente la struttura di una multinazionale. E la regina Elisabetta in un qualche modo è l'amministratore delegato di questa straordinaria azienda, a sua volta, che da anni continua a funzionare e a reggere anche i momenti difficili. Speriamo sia d'auspicio per tutte le aziende che, ahimè, si trovano a fronteggiare in queste una gravissima crisi. Grazie. Una gravissima crisi. Grazie Enrica Rodolo. Ciao Enrica. Ci sentiamo brevemente alle 22.